get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ragazze, l'11 giugno c'è l'Euro Pride. Ah, sì? E dai, Virginia, non fare sempre la depressa. Saffo, tu sei sempre a caccia di ragazze. Io ci vado. Brava, Jody. Ma venerdì 10 giugno non facciamo nulla? Ma sì, c'è Casbile speciale alla Casa Internazionale delle Donne. Ah, e che fanno di interessante? Ma guarda, per te Jody ci sono film e cortometraggi, per te Virginia presentazioni di libri e poi concorso fotografico, musica e tanto altro. Ah, io ci vengo. Non lo so. E dai, viene anche Rosy. C'è anche Rosy Bindi. Ma no, che hai capito? Rosina. Vabbè, mi avete convinta. Venerdì 10 giugno, dalle ore 14.30, alla Casa Internazionale delle Donne, Casbile speciale. Vi aspettiamo. Per informazioni www.casbile.it. Venerdì 10 giugno, Casbile speciale. A proposito, l'ingresso è riservato alle donne. E buonasera, buonasera a tutte. Quello che avete ascoltato era lo spot per l'evento speciale che abbiamo in programma per il 10 giugno. Magari più avanti diamo delle informazioni un pochettino più approfondite. Dunque, quella che state ascoltando è la nostra 250esima trasmissione, trasmissione del coordinamento Lesbiche Romane, e siamo trasmettendo attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 di MHz. Oggi qui in radio siamo io, che sono Caterina, e Lucilla, e tra poco, se trovo parcheggio, ci raggiunge Rosina. Rosina è lì che cerca che parcheggio, vaga. Per il quartiere in cerca di un buco dove allocare la sua macchina. Dunque, per oggi abbiamo programmato una scaletta particolare che ripropone la rubrica Donne Storia. Questa rubrica, che non presentavamo da un po' di tempo, a dire il vero, rientra nell'opera di riscatto che il coordinamento Lesbiche Romane ha deciso di fare nei confronti delle donne che hanno segnato la storia. Hanno segnato la storia nonostante i pochi riconoscimenti ufficiali conferiti loro dagli storici di ogni tempo. Il CLR si ripropone di restituire credito alla vita di tante donne che, per ragioni sempre uguali ma vissute in epoche diversissime, sono state tutte non calcolate, trascurate, sminuite, derise o, nella peggiore delle ipotesi, addirittura dimenticate da chi era stato incaricato di scrivere i libri di storia, e non solo di storia, anche di letteratura, di medicina, di scienza e quant'altro. Così, all'interno delle nostre trasmissioni, vi abbiamo parlato nel corso degli anni della matematica Sophie Germain, poi abbiamo parlato di Artemisia Gentileschi, di Trotula, le Dame di Salerno, Jacoba Felicia, Amelia Earhart, Saffo, che non ha bisogno di alcuna presentazione, e poi tante altre. C'è però un filo comune che unisce tutte. Come sempre è accaduto, noi del CLR abbiamo trovato delle alleate assolutamente inconsapevoli che ci hanno aiutato a riportare alla luce queste vite straordinarie. Già, perché sono sempre state altre donne, storiche, ricercatrici, scrittrici, medici, a restituire credito alle donne che ci hanno precedute. Oggi, quindi, avremo il grandissimo piacere di parlarvi di una delle tante donne omesse dalla storia, e lo faremo grazie al grandissimo lavoro di alcune ricercatrici. ed ora non voglio svelare niente di più per non rovinarvi la sorpresa. Concludo soltanto dicendo che è possibile darci un sentore della vostra presenza facendo fare un trillo al telefono della radio, che è lo 06 49 17 50, perché qui in regia si accende una lampadina ogni volta che il telefono squilla, ed in questo modo noi possiamo ascoltarvi anche senza che voi parliate. Oppure potete inviarci un SMS al 339 8536 270. Adesso mettiamo un brano musicale, possiamo sentire Alain Morissette con il brano Things. E allora ci siamo, quindi sveleremo il segreto che vi ha anticipato Caterina. E quindi oggi vi parleremo di una donna che è stata dimenticata per molto tempo, sepolta nel passato per volontà dei suoi discendenti e improvvisamente riapparsa grazie al lavoro svolto da due ricercatrici che con pazienza e impegno sono riuscite a sottrarla alla cancellazione totale. Non si tratta di una donna famosa, né così importante da giustificare le ricerche e il tempo impiegati in questa operazione. Ma a maggior ragione, il fatto che sia stata per così dire dissepolta senza che ve ne fosse una necessità specifica, rende molto bene il significato del recupero della memoria cancellata di molte donne, chissà quante, ancora nascoste nelle pieghe del tempo e della storia. Stiamo parlando di Miss Anne Lister, nata nel 1791 e morta nel 1840 nell'Inghilterra della Reggenza, quindi negli anni immediatamente precedenti al periodo vittoriano. Lesbica, proprietaria terriera, imprenditrice del carbone, viaggiatrice e diarista. È proprio la scoperta dei suoi diari ci ha permesso di conoscere la sua storia, che altrimenti, come quella di molte altre, sarebbe rimasta nascosta. Nel 1930, ad Halifax, nello Yorkshire, John Lister, pronipote di Anne, ritrova nella biblioteca della casa di famiglia una serie di quaderni appartenuti alla prozia. E qui incomincia a farsi il mistero molto fitto. Si tratta dei diari di Anne Lister, composti da più di 4 milioni di parole, che oggi sono diventati uno dei documenti inglesi più importanti sul periodo della rivoluzione industriale. Ma non solo. I diari contengono anche le impressioni, i racconti e i pensieri di Anne circa le sue relazioni intrattenute con alcune donne della contea. John Lister scopre i diari e, essendo in parte criptati, li affida ad un amico per cercare di tradurli. Anne, infatti, molto versata nello studio dell'algebra, del latino e del greco, aveva inventato un suo codice segreto utilizzandolo per scrivere delle sue avventure sentimentali. Eh? Mica male la nostra Anne. Allora, l'amico di John riesce a tradurre una parte degli scritti ed è così che si viene a sapere della vita di Anne. Ma nel 1930, in Inghilterra tra l'altro, è appena pubblicato con grande scandalo Il pozzo della solitudine di Radcliffe Hall, non sembra proprio il momento adatto per parlare di lesbismo e omosessualità. Proprio in quel periodo, infatti, le teorie scientifiche più diffuse accreditano questa deviazione-perversione come fattore ereditario. E John, omosessuale anche lui, probabilmente per evitare problemi e pettegolezzi, decide di occultare nuovamente i diari nella dimora di famiglia. Ed è lì che resteranno fino al 1960. Stiamo parlando dei diari segreti e scritti in maniera criptata da Anne Lister e trovati dal nipote John. E lì resteranno questi diari fino al 1960, cioè nascosti nella dimora di famiglia. Quando, riportati nuovamente alla luce, le autorità della contea di Halifax, giudicandoli sconvenienti, offensivi e deleteri per l'onore dell'intera comunità, li occultano nuovamente, vietandone ancora una volta la pubblicazione. Mi ricorda qualcosa? Ma chissà, cultura, non lo so. Vabbè. Sempre da parte. Bisognerà aspettare fino agli anni Ottanta, quando due ricercatrici, le professoresse Margaret Reynolds e Amanda Vickery, mi manca Rosina per l'accento, per la pronuncia precisa, riusciranno finalmente a pubblicarli. Anne Lister era una donna moderna che possedeva tutte quelle caratteristiche che oggi possiamo facilmente riconoscere in una lesbica, salvo forse una coscienza politica rispetto al riconoscimento del proprio stato. Nei suoi diari Anne racconta in modo sistematico come sia riuscita a sedurre diverse donne e come lei fosse consapevole del suo stato di lesbica, sebbene non abbia mai usato questo termine. La sua esperienza diretta dell'amore e dello scambio tra donne, illustrata nei suoi scritti, è molto più efficace di qualunque altro trattato di studio sulla cultura queer che sia stato prodotto negli anni moderni. Quando i diari vennero pubblicati grazie al lavoro di Elena Wrightbrit, che passò 25 anni della sua vita nell'opera di descrizione del testo, l'Inghilterra fu scossa da un grande shock culturale. La prima reazione fu di tacciare di falsità i diari, anche se oggi numerose prove documentali hanno finito per attestarne l'autenticità. Love, of love, so true. Ecco Rosina che vi leggerà un pezzo. Adesso continuo io per un pezzettino mentre lei si accomoda. Difficile trovare parcheggio in questa città? È difficile, va bene. Allora, eccoci qua, Rosina. Devo continuare io? Sì, prego, con questa tua voce bellissima. Ti ringrazio, sono molto provata dal parcheggio. Oh, dunque, stiamo parlando di Ann Lister, immagino. Perfetto. Perché io ho detto Ann, però Ann. Vabbè, Ann o Ann, sempre lei è. Allora, non solo Ann era consapevolmente lesbica, esattamente come tutte le qui presenti fanciulle questa sera, ma era anche una attenta osservatrice, abilissima nel ricercare e trovare nelle altre donne quei segni del lesbismo che oggi potrebbero apparire ovvi quando si osserva una donna, ma che nell'epoca in cui si svolgeva la sua vita dovevano essere necessariamente sotterranei. Si può quindi dire che Anne era anche una lesbica consapevole sia a livello psicologico che a livello socioculturale. Nei suoi diari descrive con dovizia di particolari le amicizie strette durante il suo soggiorno in Francia nel 1824. Anne si era recata in Francia da un importante luminare per farsi curare una malattia venerea che aveva contratto dalla sua amante Marianna Lawton, che si era sposata con il nobile inglese Sir Charles. Senti come lo pronuncio bene. Meravigliosa. Durante quel viaggio Anne soggiornò in una pensione femminile dove conobbe diverse donne con le quali ebbe dei flirt, come ad esempio la giovane e fragile Mademoiselle de Sons, che come Anne scrive nel suo diario sembra amare e capire abbastanza bene, o la più anziana Miss Barlow, che si lascia sedurre attraverso dei piccoli giochi sensuali. La tecnica di seduzione di Anne consisteva nel citare testi che in qualche modo toccassero il tema del lesbismo e dell'omosessualità e osservare quindi le reazioni delle ascoltatrici. Quelle più sofisticate coglievano ovviamente le allusioni. Anne racconta di come all'inizio di novembre del 1824 Miss Barlow si sedesse regolarmente sulle sue ginocchia, cosa scandalosissima, si lasciasse abbracciare e baciare e di come la loro simpatia reciproca fosse riconosciuta e compresa anche dalle altre amiche. Racconta anche di come per la prima volta Miss Barlow, giacendo nude sul letto, le avesse permesso di penetrarla con un dito e di come avessero raggiunto un orgasmo insieme. E wow! E qui si introduce anche, diciamo, in questa opera diaristica di Ann Lister, un discorso relativo all'uso del linguaggio. Ovviamente non i termini che la Lister usa non sono i termini che utilizziamo noi oggi con un linguaggio comune, corrente. Lei si muoveva, diciamo così, scriveva per eufemismi. E quindi il termine che usava per definire un rapporto sessuale completo lo diceva going to Italy, lei diceva andare in Italia, così lo chiamava. come ad esempio utilizzava l'eufemismo connessione fra signore, connecting lady, per definire le relazioni lesbiche. Del resto, parlare chiaro, come abbiamo visto, non è facile nemmeno oggi, nemmeno, figuriamoci, certo, a quell'epoca lì. E così, come si legge ancora una volta nei diari, Miss Barlow definisce gli orgasmi di Anne con l'eufemismo farsi male, proprio così. Chissà che cosa, chissà quale dolore terrificante provavano queste signore. Io non ero a piedi prima, quindi non ho sentito che cosa avete detto prima, se avete mandato un po' di musica. Sì, abbiamo messo soltanto uno spottino. Sì, abbiamo mandato lo spottino, poi abbiamo mandato un primo pezzo. Adesso io direi di mandare un secondo pezzo. Se la sorpresa? Sì, prima, se fosse possibile, sì. Prima vorrei finire questa cosa. Certo. Sì. Allora, prima del linguaggio, ne ho facoltà, certo. Vi ringrazio, siete molto generose, sono commossa nel senso della commozione cerebrale e vorrei continuare invece a dire due cose sul discorso del linguaggio. Nei suoi diari la Lister definisce l'atto sessuale come baciare, to kiss. In inglese infatti to kiss, così come del resto baiser in francese, significa tanto baciare quanto volgarmente scopare, scusate la volgarità. E quindi, ad esempio, le mestruazioni diventano un impedimento al bacio, e cioè all'atto sessuale. Mentre quando lei scrive nel suo diario stamattina ci sono stati 4 buoni baci, oppure uno alle 8 del mattino e gli altri 3 dopo le 11, presumibilmente intende intende riferirsi a una serie di orgasmi multipli, beata lei, perché qui ormai non è proprio facilissimo che se ne possa concedere qualcuno. Direi a questo punto un po' di musica, sì, per stempelare. Allora, la sorpresa, come dicevamo prima, perché sennò qui veramente si diventa una trasmissione a luce rossa. Esatto. È la sorpresa che noi abbiamo in serbo, avete sentito prima lo spottino per il 10 di giugno, dove ci sarà il Kesbile speciale Europride alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. Noi avremo un concerto e avremo il piacere di ospitare, non vi dico niente, sentite la voce, sentite il pezzo e poi se volete mandateci un messaggino se l'avete riconosciuta, però vi aspetteremo per sentirla insieme il 10 di giugno la sera presso lo splendido giardino della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Allez. Vado. Tanto io ricordo le belle sere, le belle notti e le belle parole, ma il tempo rompe, il tempo stacca, il tempo cuce e non riattacca, e ti dico che vorrei buttarti nella spazzatura, non prendertela male. Lo so, è una frase un poco dura, ma è la verità. Per non cadere nella spazzatura sarebbe una schifezza. Ho la pelle sensibile, che paro proprio una pesca. La la la. Ecco, sto rinforcando gli occhiali e per continuare la lettura. Avete riconosciuto chi è? Se non avete riconosciuto, noi non possiamo dirvi niente, ancora nulla. Però se l'avete riconosciuta, vi do il numero per inviarci un SMS che è 339-8536-270. Naturalmente non vincete niente, però certo. Quanto speravo in una, niente, qualcosa di più sostanzioso. Va bene, allora, quindi detto tutte queste cose che vi ha detto Rosina, la parte a luce rossa l'ha fatta lei. Anne in amore preferisce non essere trattata troppo apertamente come una donna. Quando Miss Barlow le chiede di poterle restituire quello che ha ricevuto, Anne si irrigidisce e il suo comportamento nei diari è che Marianna mi si addice meglio. Negli anni 50 e 60 del Novecento probabilmente la Lister sarebbe stata classificata come una Butch Stone cioè una buccia di pietra. Ma comunque probabilmente questa cosa in quell'epoca no, in quell'epoca oltretutto si parlava semmai dell'invertitismo, no? Le invertite o il terzo sesso, insomma, quindi non si capisce bene. Sì, ma lei era una donna intelligente, altrimenti non si sarebbe inventata sto gran cancan intorno a questi diari, e quindi se vai avanti... Allora, nei diari si legge anche di come Marianne si vergognasse a farsi vedere in pubblico con Anne, per via dell'aspetto mascolino di quest'ultima, ma no, dai... No, dai... Anne infatti scrive di sé: ho la figura e la natura di un uomo. E questo la dice lunga. Quindi era proprio una buccettina. Anne aveva percezione della propria diversità e cercava di indagarne la natura anche attraverso lo studio di manuali di anatomia e sessualità, ma non accettava le conclusioni dei medici, per i quali lei e quelli come lei dovevano essere o malati di mente o ermafroditi. Vi dice niente? Ricordatevi che sull'intersessualità si fa un gran dibattere adesso, ma... Si va avanti da molto. Si va avanti da molto, quindi figuriamoci. Bene, come molte lesbiche e omosessuali di periodi successivi, Anne aveva assunto modi e comportamenti dell'altro sesso ed era consapevole che la sua sessualità era oggetto di discussione tra parenti e amici. I suoi modi erano quelli di un perfetto gentiluomo, tanto che molte donne si chiedevano se effettivamente lei non fosse un uomo travestito da donna. Ma era anche abbastanza intelligente da capire di non dover agire in modo tale da evitare aperte accuse circa la sua natura. Quindi si può dire che in qualche modo Anne sì, si comportava in una maniera non esattamente ortodossa, ma comunque lo faceva in modo tale da rimanere un po' paludata, quindi era al contempo sia palese che nascosta. E infatti quando Miss Barlow le chiede se qualcuno sa chi lei sia veramente, Anne risponde che tutti ne sono all'oscuro e che semplicemente pensano che il suo è soltanto un modo molto molto originale di fare. Questo è quello che più o meno si evince dai diari, che abbiamo detto sono lunghissimi, 4 milioni di parole, probabilmente uno dei prodotti diaristici più imponenti di tutta la tradizione anglosassone. Adesso parliamo un po' di quello che Anne era, e cioè la sua, il suo posizionamento sociale. Anne era una donna che apparteneva alla media borghesia dell'epoca, aveva a sua disposizione una cospicua rendita personale, e alla morte dello zio e della zia, che erano entrambi non sposati, avrebbe ereditato la tenuta di famiglia. Questo ovviamente le consentiva una certa libertà di comportamento, la possibilità di non ricercare alleanze matrimoniali o di famiglia, e soprattutto quella indipendenza che solo la sicurezza economica può garantire, ce l'ha spiegato molto bene Virginia Woolf nelle Tre Guinee. Moltissime altre donne probabilmente che vivevano una condizione simile alla sua dal punto di vista della sessualità, dell'identità, forse appartenendo a classi sociali più basse non avrebbero potuto agire come lei ha fatto. Questo è ovviamente un particolare che dobbiamo sottolineare, che è molto importante nella espressione della sua personalità. Allora, Anne a un certo punto della sua vita chiude definitivamente la sua relazione sentimentale con Marian, e conosce però una giovane donna di 29 anni che si chiama anche lei Anne, in questo caso Anne Walker, che diventerà la sua nuova compagna. Con lei Anne comincia una nuova vita, restaura la tenuta di Shibden Hall di Halifax nello Yorkshire, che è la sua diciamo la casa vita, la sua magione, come possiamo dire. Che Yorkshire è bellissimo, è verdissimo. È verdissimo, è meraviglioso, e scopre di avere nel terreno di questa sua tenuta un importante giacimento di carbone. Wow. E quindi decide di fare un grande salto di qualità e si mette in affari, nel business. E lo fa anche grazie al denaro che porta, diciamo così, tra virgolette, in dote Anne Walker. Con lei quindi comincia questo sodalizio che è sia sentimentale che commerciale che economico, e cominciano anche i loro viaggi in tutta Europa. Quindi non è soltanto una diarista, non è soltanto una lesbica, non è soltanto una donna d'affari, è anche una viaggiatrice. Per l'epoca non è proprio una cosa diffusissima. E non è scontata affatto. Purtroppo il destino bieco in Rio è in agguato, e proprio durante uno di questi viaggi, questa volta in Russia, Anne viene punta da una zecca e si ammala di febbri, si suppone forse febbri malariche, febbri zecchine, non si sa. Febbre della zecca, probabilmente una grave infezione. Una gravissima infezione, e infatti proprio a causa di questa puntura Anne muore nel 1840 ai piedi del Caucaso in Georgia. E Anne Walker decide che la deve riportare indietro, la deve riportare a casa con lei, e quindi viaggerà per 7 lunghissimi mesi con il feretro del suo amore per riportarla a casa, dove Anne sarà sepolta nella chiesa parrocchiale. E Dai diari di Anne Lister è stato tratto anche un film che si chiama The Secret Diaries of Anne Lister. Senti questa come l'ho detta benissimo. Mamma mia. Sono meravigliosa. E la regia è di James Kent, ed è un film che è stato prodotto dalla BBC 2, che per la sua qualità è un film in costume molto bello, tra l'altro lo abbiamo dato come Case Billet. Ed è stato scelto per inaugurare il 24esimo Film Festival Gay e Lesbico di Londra. Anche grazie a questo film oggi noi possiamo ricordare una figura come Anne, che è tra l'altro molto interessante e molto particolare, anche perché ci rende, diciamo così, uno scenario dell'Inghilterra di quegli anni, della vita delle donne, di alcune donne ovviamente di quegli anni, che ad esempio ci arriva invece secondo altri canali, leggendo, non so, le opere del Orgoglio e Pregiudizio, per esempio, di Jane Austen, delle sorelle Bronte, di Emily Dickinson, eccetera eccetera. Quindi un altro mondo possibile, un'altra realtà possibile, un'altra vita possibile, che ci arriva grazie al lavoro di queste ricercatrici che per molti anni si sono occupate della decrittazione di questi diari e che finalmente possiamo leggere, per avere uno sguardo nuovo sul passato di queste donne nascoste, che ogni tanto, come dicono i conigli, ricicciano. E l'importante è ricordare che abbiamo anche noi delle madri, come dire, esatto, delle quali sappiamo, conosciamo la storia, e dalle quali possiamo dire che discendiamo. Io ho preso tutto da mamma, soprattutto il naso. Dunque, e io niente, mi corre l'obbligo di ricordare che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Ha preso la rincorsa, Caterina. Sugli 87 e 900 MHz, ho guardato l'orario di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Allora, ricapitolando, per gli sms 339-8536-270, per le mail contatti@clrbp.it, ed il telefono della radio è 06 49 17 50. Allora, prima di chiudere la trasmissione e darvi appuntamento tra 15 giorni con una trasmissione esplosiva, ve lo diciamo già da ora, con tanti collegamenti, ricchi premi e cotillon, vi ricordiamo che questo venerdì c'è al solito l'appuntamento Case Billet alla Casa Internazionale delle Donne a partire dalle 21 in poi, e che questo giovedì invece dalle 20:30 in poi presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales ci daremmo l'appuntamento a tutti i gruppi delle donne lesbiche e femministe che ne hanno voglia di venire per costruire insieme lo spezzone separatista per il Pride dell'11 giugno, l'Euro Pride dell'11 giugno che si terrà a Roma, insomma a Roma, e quindi si terrà a Roma. E sempre in occasione dell'Euro Pride io rimanderei lo spottino che abbiamo preparato e poi ci lasciamo con un'altra canzone dell'ospite che ci speciale. Sarà. Esatto. Dell'ospite speciale. Cioè, noi vi ricordiamo anche che il 28 e il 29 ci sarà il convegno di Breccia, che già magari avete sentito qui a Roma, e che vi invitiamo a seguire e a partecipare. Copiose okay. E copione. Okay, vado vai con lo spottino, vai. Vado. Ciao ragazze, l'11 giugno c'è l'Euro Pride. Ah, sì? E dai, Virginia, non fare sempre la depressa. Saffo, tu sei sempre a caccia di ragazze. Io ci vado. Ah, brava Jody. Ma venerdì 10 giugno non facciamo nulla? Ma sì, c'è Casbile speciale alla Casa Internazionale delle Donne. Ah, e che fanno di interessante? Ma guarda, per te Jody ci sono film e cortometraggi, per te Virginia presentazioni di libri, e poi concorso fotografico, musica e tanto altro. Ah, io ci vengo. Non lo so. E dai, viene anche Rosy. C'è anche Rosy Bindi. Ma no, che hai capito? Rosina. Vabbè, mi avete convinta. Venerdì 10 giugno, dalle ore 14:30, alla Casa Internazionale delle Donne, che è Casbile speciale. Vi aspettiamo. Per informazioni www.casbile.it. Venerdì 10 giugno, Casbile speciale. A proposito, l'ingresso è riservato alle donne. Fragrance qui danse pour la stance, fragrance la chanson des bonbons, des criances. Io son parfait, no parfait de café, mais parfum de parfait, vado à l'eur profumé. Étoile de nuit bleu noir, parfum des étoiles de nuit obscure bleu noir. Mystère violette de rose et rose pour Mouguette, rose plus de trois, quatre, cinq, des zaffadas, nas, orecchio, code, pants, da Giacinto à Giovanni, la sparison de l'homme, la fiandre avec l'ozone. De nuit bleu noir, parfum des étoiles de nuit obscure bleu noir. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.